America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, ascoltate una canzone in un Broadway show che ha a che fare con Napoli e con Obama. How beautiful you are, city of cheerfulness, that every sadness always takes away. How beautiful to Beautiful, scritta e cantata da Diana Tegira, una cantante che è andata anche a Sanremo e che è una delle protagoniste di questo off-Broadway show scritto da un giornalista italiano che si chiama Claudio Angelini, che ha avuto questa idea dopo un soggiorno napoletano in cui ha visto una città da una parte molto giù, ma dall'altra una città molto reattiva, perché lui stava presentando il suo libro, un libro che aveva scritto su Barack Obama, e il pubblico che aveva partecipato a questa presentazione si era entusiasmato enormemente, sicuramente più che in altre città. È nato dunque un musical che si intitola Obama in Naples e che è stato presentato in anteprima ai critici e al pubblico newyorkese. Ho con me ai microfoni di America 24 Claudio Angelini, in diretta dall'Abingdon Theater, questo teatro off-Broadway sulla 312 West 36 fra l'ottava e la nona Avenue. Claudio Angelini. Claudio, buongiorno, mi senti? Ciao Mario, buona giornata. Eccoci. Beh, Claudio, devo dire, questa volta hai superato te stesso, hai fatto persino un play. Sì, insomma, visto che nelle mie tante attività c'era un po' la prosa, un po' la poesia, un po' anche di tanto in tanto la musica, abbiamo messo tutto insieme. E ho fatto appunto una commedia musicale in omaggio a Napoli, ecco. Claudio, dunque tu hai scritto un libro su Obama. Intanto, prima di tornare a parlare del play, del musical, dimmi un attimo qual è la tua impressione su questa corsa elettorale. Come sta andando secondo te? Secondo me è una battaglia molto aperta. E grazie anche al ritiro di Santorum, Romney al tempo per recuperare. E francamente Obama è stato anche un po' troppo aggressivo nei suoi confronti, il suo entourage è stato aggressivo, l'entourage di Michelle nei confronti della moglie di Romney, in generale nei confronti dei conservatori, quindi può andare a finire chissà come. Ecco, però secondo te questo Obama piace, e piace soprattutto a Napoli, e devo dire che questa è un'idea sicuramente straordinariamente creativa. Com'è che Obama ha affascinato Napoli e i napoletani? Ma intanto è indubbiamente una figura carismatica, perché prima di affascinare i napoletani ha affascinato gli americani, se no non sarebbe stato eletto. Però a Napoli piace, perché Napoli è una città strana che ama le figure carismatiche. Lui è una figura carismatica, e poi Napoli ha tanti di quei problemi che pensa che ci voglia un San Gennaro nuovo. Ecco, allora vediamo il musical. La trama comincia con un giornalista che arriva a Napoli dopo 30 anni e trova una città trasformata, cambiata. Deve scrivere un reportage su questa città, ma i napoletani pensano che lui, che vive in America, possa essere un contatto diretto con il presidente Barack Obama. Pensano che stia preparando una visita del presidente e quindi lo accolgono con tutti gli onori, ecco. Poi che cosa succede? Che il giornalista, facendo questo suo reportage, conosce tante brave persone, ecco, diventa una specie di leader del gruppo dei buoni contro il gruppo del male, che è rappresentato ovviamente dai soliti problemi napoletani, la camorra, la corruzione, non solo napoletani naturalmente. Ecco, ci sono in questo tuo play vari personaggi, c'è, se non sbaglio, Madre Concetta, c'è una suora che a un certo punto, sì, interviene. Madre Concetta è un personaggio basilare, è una suora passionaria che è diventata suora un po' per vocazione, ma anche perché aveva sofferto molto e allora aveva preso i voti proprio per aiutare il prossimo. Adesso pensa che per aiutare Napoli debba fare una rivoluzione. A un certo punto Obama arriva sul serio. Arriva a Napoli e salva, diciamo, il gruppo del bene con la sua presenza. Non fa miracoli, dice semplicemente ai napoletani che devono avere più fiducia in se stessi. Un discorso che ha ripetuto un po' a tutti i popoli un po' oppressi. Il yes we can, famoso yes we can, yes, yes we you can. Ecco, yes we can, yes you can, e tutti ci credono e tutti sono soddisfatti. E a quel punto Obama si innamora tanto di Napoli che non vorrebbe andarsene via, ma arriva Hillary, lo prende sotto braccio, lo prende lei per il bavero, gli dice: guarda, tu c'hai le elezioni presidenziali, torna subito a Washington. E seppure a malincuore Obama va via, ma i napoletani gli dicono: guarda che anche se perdi le elezioni, insomma, forse è una fortuna, perché qua un posto te lo troviamo, o come sindaco o come governatore o al limite come santo. Claudio, sei tu anche uno dei produttori di questo musical, se non sbaglio. Sì, grazie a Dio in minima parte, ma comunque diciamo che i musical off-Broadway possono costare anche relativamente poco. Ecco, scusa, dici com'è, perché io credo che i nostri ascoltatori siano interessati, ma com'è che una persona decide di mettere su uno show a Broadway? Cioè, come nasce questa tua produzione a Broadway? Ma guarda, io ho scritto la commedia, io ho scritto le musiche, buona parte delle musiche, ho scritto tutti i testi anche delle musiche così composte dagli altri musicisti. Poi l'incontro con Mario Fratti è stato determinante, perché lui mi ha presentato dei registi che avevano i loro prodotti, i loro producer. Fratti è un commediografo italiano che vive a New York da 50 anni, conosce soprattutto benissimo il mondo teatrale di New York. Quindi si può fare, volendo, una produzione a Broadway, a off-Broadway, diciamo, perché, ecco, vi do un attimo il contesto, il teatro, l'Abingdon Theater, è sulla 36esima fra l'ottava e la nona Avenue, quindi un po' più downtown rispetto al Broadway vero e proprio, che è intorno alle 40, e tra l'ottava e nona Avenue, dunque un po' più a west. Dovete sapere che a New York, appunto, c'è Broadway e c'è off-Broadway. Off-Broadway sono in genere degli spettacoli che nascono con un budget molto limitato, testano un pochettino il mercato, trovano qualcuno che fa queste produzioni e poi, se funzionano davvero bene, passano a Broadway nei teatri più grandi. Per esempio Hair, vero Claudio, se non sbaglio, era stato uno spettacolo nato off-Broadway. Fu il primo spettacolo nato off-Broadway nel 1967, mi pare, ed ebbe un notevole successo. Costò pochissimo all'inizio, poi costò un po' di più quando passò a Broadway. Comunque ci sono tanti altri casi analoghi. E poi esiste una terza formula, che off-Broadway, ecco, che costa pochissimo, che finisce poi in teatri con pochissimi posti, ecco. La caratteristica dei teatri off-Broadway è di avere circa 100-150 posti. Tu sei stato, Claudio, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, quindi ovviamente conosci a fondo la nostra cultura, hai potuto fare dei confronti. Ma perché in America ci sono questi spettacoli di Broadway, off-Broadway, o comunque al di là delle play, c'è questa straordinaria tradizione del musical, dell'arte drammatica, che, diciamolo, da noi non c'è. Ecco, qual è la differenza? C'è una cultura diversa, non dico che New York sia più colta di Roma o di Milano o di Napoli, però c'è certamente una cultura molto diversa. Ma c'è una cultura diversa anche nella preparazione degli attori. Qua gli attori sanno fare tutto. Devo dire che i miei attori sono fantastici, recitano benissimo, cantano benissimo, ma non cantano orecchio, cantano leggendo il pentagramma, ballano. Sono attori che si sono formati in scuole specializzate, ma nelle università. Ecco, lo stesso regista, Stefan Morro, è uno che viene fuori dall'Actor Studio, di un allievo di Elia Kazan, ha fatto opere di Arthur Miller, opere importanti, e poi hanno un entusiasmo veramente diverso, ecco, non si considerano mai arrivati. In fondo alcuni di questi attori hanno recitato in altri musical che sono andati molto bene, tipo Jesus Christ Superstar, però ricominciano sempre da capo con un entusiasmo giovanile che incanta, ecco, sono quasi contagiosi. E c'è anche forse una creatività maggiore dal punto di vista degli autori, devo dire, mi ha colpito, non so te cosa ha colpito recentemente a Broadway, a me ha colpito moltissimo, per esempio, The Book of Mormons, ecco, sì, un'idea straordinaria che a immaginarla uno non pensa che possa essere trasferito in un musical, eppure il risultato è incredibile, ecco, cosa ne pensi? È tutta un'altra cosa, ma forse perché non ci sono contributi pubblici qua. Gli spettacoli vanno avanti con i producer privati, costano anche meno, le unions, i sindacati sono in questo senso molto comprensivi, ecco. Diciamo che non impongono delle tariffe alte per gli attori e gli attori sono contenti lo stesso. In fondo non prendono moltissimo, ma recitano con entusiasmo lo stesso, anzi forse con maggiore entusiasmo, proprio perché si considerano, anche se non sono più dei giovanotti, si considerano quasi ogni volta all'esordio. È tutta un'altra cosa, e questo depone al favore di New York. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, avendo parlato di Napoli e di Obama, non potevo che scegliere una canzone che facesse un bridge, un ponte tra America e Napoli. Elvis Presley, It's Now or Never. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime